È stato quel giorno che vi ho fotografata. E voi mi avete chiesto di concedervi ancora un anno, pensando forse così di mettermi alla prova, o di stancarmi, o di dimenticarmi forse. Ma il tempo non conta. Io ora sono tornato a prendervi. No, è impossibile. No, no, è impossibile. Naturalmente. Invece voi sapete benissimo che è possibile. Che siete pronta. Che partiremo insieme. Che cosa vi dà questa certezza? Partire per andare dove? Non lo so. Lo vedete? Meglio separarci per sempre. L'anno scorso... No, è impossibile. Voi partirete solo. Non è vero! Non è vero che abbiamo bisogno dell'assenza, della solitudine, dell'eterna attesa. Non è vero. È che avete paura. No! Ma è troppo tardi, adesso. Troppo tardi, adesso. No! No! Ma è troppo tardi, ma è troppo tardi, ma è troppo tardi. È di voi viva che ho bisogno. Viva. Come lo siete già stata. Ogni sera. Per settimane. Per dei mesi. Non sono mai rimasta tanto a lungo in nessun luogo. Sì. solo di aspettare ancora un po'. L'anno prossimo, qui, lo stesso giorno, alla stessa ora, e vi seguirò dove vorrete. Perché aspettare ormai? Ve ne supplico, è necessario. Non è lungo un anno. No. Per me non è nulla. Thank you. We'll be right back. avreste potuto continuare a vivere fra questi ambienti dipinti, fra questi specchi e queste colonne, queste porte che sbattono, queste scale troppo grandi, in questa camera sempre aperta. Un anno. Sentivate meglio. Stringetemi forte le mani. Sì, e dormirete adesso. Sì, e così sarete già ristabilita per l'arrivo di quell'Hackerson. Dove siete? O Patterson. Cosa? Con cui dovreste far colazione domani. Non lasciatemi andare via. Sapete bene che è troppo tardi. Domani sarò solo. No, poveretto, non ancora, ma... Dove siete, mio amore perduto? Sono qui. When will we leave? Thank you. Thank you. Giardino alla francese, senza alberi, senza fiori, senza vegetazione alcuna. La ghiaia, la pietra, il marmo, la linea retta, vi segnavano spazi rigidi, superfici senza mistero. Sembrava a prima vista impossibile perdersi, a prima vista, lungo quei viali rettilinei, fra statue dai gesti immobili e lastre di granito, dove voi ora stavate già perdendovi, per sempre, nella notte tranquilla, sola con me.